Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di sindacati, di contratti, di misure anticrisi, di problemi previdenziali. Lo facciamo con Tito Boeri, che saluto. Buongiorno Boeri. Buongiorno. Tito Boeri è docente di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, è editorialista di Repubblica, è tra i fondatori, gli animatori del sito La Voce Info, un sito di informazione in cui scrivono molti economisti, ed è anche recente autore del libro con Pietro Garibaldi, Un nuovo contratto per tutti, edito da Chiare Lettere, per avere più lavoro, salari più alti e meno discriminazione. Allora, i problemi del lavoro sono in primo piano, abbiamo visto in questi giorni le notizie sulla crisi finanziaria che sta coinvolgendo anche l'economia reale, in particolare in Italia ha fatto scalpore anche il fatto che la Fiat abbia messo in cassa integrazione gran parte dei propri dipendenti, fermando le fabbriche per un mese durante tutte le vacanze di Natale, con una cassa integrazione che non si era mai vista in precedenza. Siamo di fronte a provvedimenti appunto speciali. Come reagisce il governo, come reagisce l'economia di fronte a questi provvedimenti? Allora, Tito Boeri, si è parlato molto di riformare alcune strutture come la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, si è fatto forse poco. Tito Boeri. Temo di sì, perché davvero la prima cosa da fare di fronte alla crisi sarebbe stata quella di fare questa riforma, che è una riforma che noi dobbiamo fare comunque. Quindi nel fronteggiare la crisi noi dobbiamo pensare anche al dopo, e noi abbiamo bisogno di dotare il nostro paese di ammortizzatori sociali moderni e che coprano tutti i lavoratori. Oggi non è così, noi abbiamo dei trattamenti che sono favorevoli per un gruppo fin troppo per certi aspetti generosi, perché accompagnano alcuni lavoratori fino alla pensione, per pochi lavoratori e la gran massa di coloro che perdono il posto di lavoro non riceve alcun aiuto. Noi abbiamo circa un disoccupato su 5 che riceve sostegno dallo Stato, negli altri paesi europei la quota è di 4 su 5, addirittura 9 su 10 nei paesi del nord Europa. Ecco, noi dovremmo allargare la platea di chi è assistito in caso di perdita del posto di lavoro. Cioè, si è fatta una riforma del mercato del lavoro degli anni passati, forse una riforma a metà, una riforma che ha allargato la flessibilità, soprattutto in entrata sul mercato del lavoro, con nuovi tipi di contratti, nuovi tipi di occupazione, che però a cui non ha corrisposto una riforma degli ammortizzatori sociali, che continuano a garantire chi era già garantito, cioè il lavoratore a tempo indeterminato, a lungo termine, che può contare appunto su strumenti di garanzia del reddito, mentre gli altri lavoratori non sono protetti e garantiti. Ma chi si oppone soprattutto a queste riforme? Esatto, è proprio il nodo di fondo oggi, sono proprio tutti questi lavoratori che hanno dei contratti a tempo determinato che sono in scadenza. Noi abbiamo stimato che per esempio alla fine dell'anno ce ne saranno più di 300.000 in Italia con queste caratteristiche, e che rischiano, di fronte alla situazione che si è creata, di non vedersi rinnovato il contratto, quindi si troveranno in uno stato di disoccupazione e a questi lavoratori non verrà concesso alcun aiuto. Il governo è recentemente intervenuto, ma con delle misure che sono del tutto inadeguate per fronteggiare la situazione, con degli strumenti che sono ancora estremamente selettivi, in quanto lasciano al governo, alle parti sociali, alle regioni, poi discrezionalità, ampia discrezionalità nel decidere chi potrà accedere e chi non potrà accedere a questi strumenti. Chi si oppone a queste riforme? Ma credo che ci sia sicuramente un problema di costi nell'immediato, perché dovrebbero, se si facesse bene la riforma, questi sono strumenti che poi si sostengono da soli, come negli altri paesi, perché sono sistemi di tipo assicurativo, sostenuti dai contributi di lavoratori e imprese. È chiaro che di fronte ad una fase di recessione, nell'avvio di questo strumento, soprattutto se si dovesse allargare, come io credo sia giusto, l'assistenza ai lavoratori del cosiddetto parasubordinato, noi avremo dei lavoratori che sin qui non hanno pagato i contributi, i loro datori di lavoro non hanno pagato i contributi, c'è una crisi, dobbiamo dare a loro aiuto, quindi per questa prima generazione di lavoratori che perdono il posto di lavoro dovrebbe intervenire per forza di cose la fiscalità generale, quindi certamente ci sarebbe un onere per le casse dello Stato associato a questo. È chiaro che questo è un problema, però ripeto, qui è una questione di priorità. In Italia si è deciso anche recentemente di destinare risorse ingenti all'abolizione totale dell'ICI sulla prima casa. casa anche per, diciamo, fasce di reddito relativamente elevate, si è deciso di spendere molti soldi pubblici per salvare la cosiddetta italianità di Alitalia, si sono fatte tante scelte di quel tipo. Quando si tratta di aiutare i disoccupati vengono fuori vincoli di bilancio, ecco, non capisco perché ci si ricorda che abbiamo un debito pubblico così alto soltanto quando si tratta di intervenire per aiutare i disoccupati. Ricordo agli ascoltatori il numero verde, l'800 24 0024, per le vostre telefonate. Rispondo a un sms di Luca, dice: dovevate parlare di Abruzzo. Ricordo che abbiamo fatto uno speciale sull'Abruzzo ieri pomeriggio per commentare appunto i primi risultati elettorali, uno speciale che ho condotto direttamente io, quindi abbiamo parlato di Abruzzo, sicuramente lo abbiamo fatto anche durante i TG. Oggi parliamo di appunto di temi del lavoro, temi molto attuali per molti lavoratori. Volevo chiedere a Tito Boeri anche se appunto c'è anche però un ruolo dei sindacati, che hanno in fondo, sono molte divisioni interne al sindacato. Il sindacato è stato molto pronto a dire dei no anche dell'ultima proposta di Brunetta di innalzare l'età pensionabile per le donne. Quando si tratta di dire dei no anche alla riforma dei contratti, il sindacato è sempre unito o è diviso, appunto sui contratti è molto diviso, però non si riesce a sbloccare. Quindi un ruolo, diciamo, di freno del sindacato in queste riforme c'è stato. Assolutamente sì, credo che prevalga questa filosofia nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in Italia, cioè quello che devono essere degli strumenti selettivi per cui è il governo di turno e i sindacati che decidono chi può accedere e chi non deve accedere a questi strumenti. Esistono i cosiddetti fondi in deroga che dovrebbero appunto decidere a quali imprese, a quali lavoratori concedere l'accesso ai sussidi, diciamo agli strumenti più generosi, la cassa integrazione, le liste di mobilità, e questo dà un potere molto forte sia al governo che ai sindacati di fatto nel fare politica industriale e nel in qualche modo influire sull'andamento delle imprese, nell'istruire in qualche modo sull'atteggiamento dei lavoratori rispetto allo stesso sindacato. Ecco, io credo che questo approccio sia assolutamente inaccettabile, perché non è possibile che gli ammortizzatori sociali diventino uno strumento di politica industriale. Gli ammortizzatori sociali sono un diritto dei lavoratori, chiaramente a questo diritto deve corrispondere anche il fatto che debbano pagare loro e i datori di lavoro dei contributi, perché è una forma assicurativa, però tutti i lavoratori devono poter, non ci devono essere distinzioni né in base al tipo di contratto che un lavoratore ha, né in base al tipo di settore produttivo presso cui si opera, né in base alla dimensione dell'impresa presso cui si opera. Ecco, queste, tutte queste distinzioni che ci sono oggi in Italia sono assolutamente inique e in qualche modo danno questo eccessivo potere discrezionale, questa eccessiva discrezionalità appunto il governo e agli stessi sindacati. Sì, indubbiamente quando si tratta di salvaguardare il reddito non dovrebbero esserci dei limiti, dei controlli particolari o delle forme particolari di intervento sottoposte alla discrezionalità di qualcuno. Tutti i lavoratori dovrebbero essere appunto uguali di fronte al loro proprio bisogno di mantenere il reddito adeguato. Sentirei Mauro da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Senta, innanzitutto io volevo esprimere un mio pensiero. Sono veramente esterrefatto da quello che sto sentendo in tutti questi giorni, nel senso che comunque alla fin fine chi ci sta rimettendo da questa crisi economica sono soprattutto i giovani e le persone probabilmente della mia età, io ho 42 anni. Seconda cosa, volevo chiedere questo perché è un pensiero che mi sono sempre posto ma non ho mai trovato una risposta. Come mai nei rinnovi contrattuali a livello nazionale, no? A parte l'eseguità, scusi? Pronto? Dica, sentiamo bene. A parte l'eseguità degli importi per quanto riguarda gli aumenti, quelli, ma sono sempre divisi in 2-3 tranche ogni 6 mesi, ogni 4 mesi, mentre invece gli aumenti per i manager sono immediati. E riporto una notizia che avete dato voi circa un paio di mesi fa, mi sembra il signor Cruciani nella Zanzara, disse che vi è un manager, il signor Profumo, che prende 9 milioni di euro all'anno. Io vorrei sapere che cosa fa questo signore per guadagnare tutto questo ben di Dio. Grazie. Grazie, indubbiamente. Tito Boeri, ci sono molte, molte differenze salariali, ci sono alcuni manager che prendono sicuramente troppo. Sicuramente credo soprattutto che ci siano dei limiti della nostra classe manageriale, che in qualche modo anche essi hanno contribuito alla situazione della nostra economia. La ragione per cui non soltanto le retribuzioni ma anche i redditi degli italiani sono rimasti al palo negli ultimi 10 anni è che la nostra economia è rimasta praticamente ferma, e chiaramente quando un'economia va così male ci sono delle forti responsabilità della classe politica, perché avrebbe dovuto fare riforme per in qualche modo riportarci su un sentiero di crescita, ma ci sono sicuramente anche delle responsabilità molto forti della classe manageriale. Ed è vero che talvolta gli schemi di compensazione dei manager non tengono conto, soprattutto in Italia, questa tra l'altro è una delle ragioni per cui l'Italia appunto va così male, è della performance delle aziende. Noi abbiamo moltissime aziende che sono rette con un principio che noi definiremmo fiduciario, in cui è il proprietario che affida al manager l'impresa e lo retribuisce in modo del tutto indipendente alla performance dell'azienda stessa, per cui che l'azienda vada bene o che vada male, che distrugga posti di lavoro, che distrugga valore, addirittura anche in queste condizioni il manager viene lautamente pagato. Quello che conta è che il manager sia fedele al proprietario. Ecco, questo modo di procedere è quello che ha portato parte delle nostre imprese alla situazione attuale, che ha impedito alla nostra economia di ripartire. Sicuramente tutto questo ha contribuito al declino economico del nostro paese. Non è una malattia solo italiana, ma questo non ci consola. I grandi stipendi dei manager su questo fronte, gli Stati Uniti, ci hanno dato forse un cattivo esempio. Stiamo parlando con Tito Boeri, docente di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, editorialista di Repubblica, rianimatore del sito lavoce.info, autore del libro con Pietro Garibaldi, Un nuovo contratto per tutti. Stiamo parlando di contratti, di lavoro, di sindacati. Lascerei la parola a Danilo da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo chiederle da dove erano presi i soldi della cassa integrazione, materialmente proprio. Grazie, una domanda molto specifica. Tito Boeri. I soldi della cassa integrazione sono frutto dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro di queste imprese. In alcuni casi, soprattutto in fasi recessive, ci può essere anche un contributo delle casse dello Stato e della fiscalità generale, ma normalmente questo istituto funziona con i contributi di lavoratori e di imprese. In effetti per molti anni è stato in surplus, quindi è stato pagato sia da imprese che da lavoratori, senza che ci sia stato un intervento, diciamo, della fiscalità generale o di tutti i contribuenti. Ecco, quindi questi soldi della cassa integrazione adesso ci sono in un fondo, mi pare, presso l'INPS, sono frutto appunto dei contributi pagati dai lavoratori in parte dalle imprese, quindi i contributi della cassa integrazione fanno parte un po' di quel cuneo fiscale che separa il reddito, il costo del lavoro da parte delle imprese a quello che prendono i lavoratori come reddito netto, che in Italia è ancora molto alto. Questo è ancora uno dei problemi aperti, Tito Boeri. Certamente, comunque, quando appunto i soldi dei lavoratori vengono utilizzati per in qualche modo dare loro delle assicurazioni, delle protezioni contro il rischio di disoccupazione, oppure per assicurare loro una pensione quando decideranno di ritirarsi dalla vita attiva, ecco, questo sicuramente fa parte di quello che viene comunemente definito il cuneo fiscale. Tuttavia è una forma di, se vogliamo, di risparmio forzoso dei lavoratori, e quindi insomma è una cosa ben diversa dal prelievo fiscale in quanto tale. Credo che i lavoratori stessi se ne rendano conto e lo accettino. Io sono convinto che moltissime altre imprese e i lavoratori sarebbero disposti a versare anche una piccola parte del loro salario per avere poi essere protetti da un'assicurazione contro la disoccupazione degna di questo nome. Che è anche appunto una forma di solidarietà tra i lavoratori, perché ovviamente non tutti, per fortuna, saranno colpiti dalla disoccupazione, quindi chi è colpito beneficia dei contributi pagati da chi non è colpito. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, un saluto a voi e al suo ospite. Grazie. Volevo fare una constatazione. Oggi si sta cercando di riportare in stalla le mucche che qualcuno ha fatto scappare. cioè qualcuno ha aperto la stalla, nel senso la delocalizzazione delle imprese che sono andate all'estero. Il governo, quando hanno cominciato a portare il lavoro all'estero, perché non ha fatto di tutto per fermare questo diciamo, cioè, perché non ha fatto di tutto per fermare questo modo di intervenire? Cioè, le aziende vanno all'estero, ma chi ha impedito che andassero all'estero? Grazie, mi sembra una domanda molto chiara. Tito Boeri. Io credo che oggi il problema sia diverso, oggi il problema che noi abbiamo di fronte è un problema di una recessione globale, per cui non sono le imprese che vanno all'estero, non ci sono dei paesi che oggi sono immuni dalla crisi, purtroppo la recessione è estesa a tutti ed è per questo che è anche così grave ed è così difficile, quindi non è il problema della delocalizzazione quello che crea oggi questa tensione sul mercato del lavoro e crea disoccupazione. Ciò detto, io non credo che sarebbe stata una scelta lungimirante da parte di un governo vietare alle nostre imprese di aprire, di decentrare fasi del processo produttivo in altri paesi. Primo perché le avrebbe messe in posizione di inferiorità rispetto ad altre imprese che in altri paesi appunto hanno questa possibilità e quindi a quel punto avrebbe mandato ancora di più in crisi le nostre imprese nella competizione internazionale. Secondo perché molti studi documentano che le imprese che hanno fatto delle delocalizzazioni poi in realtà hanno creato più posti di lavoro in madrepatria, compresa nella sede principale in Italia, perché hanno creato lavori in altri terreni, per esempio nell'assemblaggio dei prodotti, nella vendita dei prodotti, nella commercializzazione. La Germania è un paese che in questi anni ha retto molto bene, si è trasformata profondamente, ha retto molto bene la competizione a livello internazionale, ha addirittura aumentato le proprie quote di mercato proprio procedendo in modo esteso a queste strategie di delocalizzazione. Quindi non credo che sia quella la risposta che noi dobbiamo dare. La risposta che noi dobbiamo dare alla crisi, alla stagnazione dell'economia italiana è quella di cambiare la specializzazione produttiva del nostro paese e in questo disegno è fondamentale davvero la riforma degli ammortizzatori sociali perché permette di spostare risorse da settori produttivi che sono in declino, invece settori produttivi che hanno maggiore opportunità di sviluppo con dei costi sociali limitati. Abbiamo ancora un minuto, ci sono molti sms che ci chiedono un parere sul fronte della riforma delle pensioni, io lo vedrei proprio nell'ottica di anche della riforma degli ammortizzatori sociali. Può essere previsto in questo, Tito Boeri, anche un intervento sulla previdenza di cui si parla ormai apertamente? Assolutamente sì, io penso che però non si tratti di imporre dei limiti rigidi nell'età di pensionamento, come proposto dal ministro Brunetta. Tra l'altro quella sentenza della Commissione europea, purtroppo non abbiamo molto tempo di parlarne, è stata interpretata a mio giudizio in modo sbagliato. La cosa fondamentale è ripristinare lo spirito della riforma del sistema previdenziale che è stata introdotta nel 96 e poi soltanto in parte applicata e poi sfalsata da diversi interventi legislativi successivi, cioè quello di dare a uomini e donne esattamente le stesse regole e la possibilità di scegliere in una finestra di età, cioè diciamo che da 57 a 65, io direi meglio sarebbe da 58 a 66 anni, uno può andare in pensione, se va in pensione prima avrà una pensione più bassa, se va in pensione più tardi avrà una pensione più alta e questo è normale perché chiaramente andando in pensione prima si percepisce la pensione più a lungo, se invece si va in pensione più tardi si pagano contributi più a lungo e si percepisce la pensione di meno, quindi è giusto che uno abbia una pensione più pesante se va in pensione più tardi e questo permetterebbe non solo di avere un'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne, ma anche di in qualche modo permettere a persone che hanno carriere lavorative molto diverse, certo. Istruzioni eccetera, di avere più flessibilità nella scelta di quando andare in pensione. Grazie, dobbiamo purtroppo fermarci qui, il tema delle pensioni è un tema molto caldo, lo dimostrano i messaggi che stanno arrivando, ne parleremo ancora in altre occasioni. Io ringrazio Tito Boeri, docente di economia alla Bocconi di Milano, editorialista di Repubblica e animatore del sito La Voce Info, autore del libro Un Contratto per Tutti. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato, Carmelo Lauricelli in regia, l'appuntamento è per domani.